Va bene, cominciamo? No, allora, siccome vedo con piacere che c'è una nutrita partecipazione di fedeli e volevo ricordarvi che domenica scorsa c'è stata l'ascensione, no? E quindi parafrasando Guccini, che se muore per tre giorni e poi risorge, possiamo aggiungere che il capitalismo è un dio che non è morto. Certo, Massimo Novelli, che è stato Maurizio Novelli, che è stato diverse volte nostro ospite, in un articolo su Milano Finanza del 2020 ci spiegava, il titolo era questo, perché il sistema capitalistico è praticamente morto. Vabbè, lui poi durante l'articolo ci aggiungeva anche che gli Stati Uniti dal 2001 in poi hanno messo l'economia reale a sostegno della finanza. E aggiungeva che nell'ultimo ciclo espansivo il debito nel sistema internazionale è cresciuto del 110%, ma il PIL mondiale è cresciuto solo del 46%. Quindi per ottenere un dollaro di PIL abbiamo fatto 2,4 dollari di nuovo debito. La domanda è: perché il moltiplicatore del debito peggiora sistematicamente in ogni ciclo espansivo? Se uso questo debito per fare investimenti reali, dovrei assistere a un incremento del PIL decisamente più alto. Il motivo per cui il PIL cresce sempre meno a fronte di sempre più debito è perché una parte rilevante di questo nuovo debito serve per fare finanza e non per fare investimenti nell'economia reale. Qua, questo è quanto Novelli diceva e sosteneva, che in buonissima parte condivisibile e sostenibile. È indubbio quindi che una massa enorme di capitale finanziario, negli ultimi dati, gli ultimi dati che abbiamo disponibili, parlano di derivati per 2,2 milioni di miliardi di dollari, completamente slegati dal PIL mondiale, il quale assomma circa 80 mila miliardi annui. Tutto ciò ha cambiato il rapporto, la natura del rapporto tra finanza e industria, che originariamente serviva alla concentrazione degli investimenti per l'industria, che a sua volta estraeva il plusvalore. Nel tempo della globalizzazione il capitale non ha la possibilità di valorizzarsi nella sfera della produzione, perciò è destinato a rimanere capitale fittizio e quindi in prospettiva scontrarsi con lo scoppio di bolle speculative. In questo modo si passa ad una pratica esorcista, sperando di trasformare il trasferimento di valore in creazione di valore. Questi espedienti, la dinamica che ne consegue, sono già stati descritti da Marx quando parla di capitale commerciale, dell'uso del denaro per comprare denaro, del credito, della circolazione di titoli che ne derivano, per arrivare ai giorni nostri alla speculazione in un mondo sempre più sottomesso alla finanza, dove i capitalisti sono sostituiti da manager, separando la gestione del capitale dai proprietari. Il capitalismo, nel processo permanente nel pianeta, con il procedere della digitalizzazione, ottiene il risultato dell'espropriazione della tanto sbandierata privacy e tenta di mettere sotto sorveglianza l'intera società. L'intero sistema di controllo è l'involucro. Il capitalismo è arrivato alla sua massima espressione è il suo contenuto. L'involucro non corrisponde più al contenuto. A livello mondiale i ceti medi, le mezze classi, la piccola borghesia sostanziano le sirene di populisti, sovranisti, nazionalisti di varie tinteggiature di colori. Non ha importanza qui andare a vedere l'esame del sangue, del colore di questi soggetti. Perché? Per non arretrare il loro status nella società, ma la tendenza è irreversibile e sullo sfondo potremo vedere la precipitazione di fette di questi soggetti addirittura nella povertà. Non è un caso che a livello mondiale, mi riferisco ai paesi industrialmente e finanziariamente avanzati, siano questi gruppi a mobilitarsi. Tanto per fare un esempio, le recenti manifestazioni dei cosiddetti imprenditori agricoli che chiedono sgravi fiscali e aumenti di fondi nazionali e europei cozzano con gli interessi della catena della distribuzione che si avvalgono della forza della loro logistica e della potenza del cash a loro disposizione. Delle forme in continua trasformazione, delle quali stasera parleremo, del capitalismo in continua contraddizione con se stesso, che a differenza del passato, per meglio dire, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva prodotto inclusione e inserimento nella scala sociale, oggi produce esclusione, degrado e fuoriuscita dallo status sociale. Di questo e delle forme, le proteiche forme che il capitalismo si è dato e si sta dando, lascio la parola a Massimo. Buonasera a tutti. Due cose prima di cominciare. La prima è il titolo della riunione di oggi è cos'è questa crisi e si sottintende che sia una crisi permanente, non sia una crisi passeggera o congiunturale. E diciamo che la diagnosi generale è la stessa, dovunque si guardi, si lega, il capitalismo è virtualmente morto, praticamente morto, potenzialmente morto, sicuramente morto, ma la domanda è il capitalismo o qualche tipo di capitalismo o quale tipo di capitalismo, perché a seconda della definizione che uno dà di capitalismo stiamo parlando di un morto che però dà segni di presenza abbastanza frequenti, abbastanza inquietanti e trasversali. Quindi Marx stesso diceva che il capitalismo è la configurazione variabile della società con al suo interno le potenzialità per farla scattare da un piano all'altro, a livello all'altro, liberando energia. Quindi Marx stesso si era reso conto che il capitalismo sarebbe veramente diventato proteiforme e avrebbe continuato ad evolvere in forme prevedibili e anche non prevedibili. Quanto queste forme siano una sostitutiva dell'altra o invece coesistenti, questa è una domanda assolutamente pertinente alla quale si deve dare una risposta con grande attenzione. Volevo fare un po' un flashback su da dove siamo partiti col primo incontro. E lo faccio molto brevemente. Noi siamo partiti con l'intento di ragionare sulla finanza e quindi sugli strumenti, sui prodotti, sulle istituzioni, sulla dinamica, sulla storia e quindi siamo passati attraverso tutta una serie di avvenimenti molto importanti che possono essere dalla fondazione, dalla Costituzione della Federal Reserve nel 1913 al Trattato di Bretton Woods nel 1944. Poi siamo arrivati al 1971 quando il dollaro si svincola dal legame con l'oro per poi arrivare al 2007-2008 con la crisi che ha toccato il mondo con i derivati che tutti ormai abbiamo imparato a chiamare subprime. In questa corsa abbiamo incontrato tanti tipi di capitalismo, tra i quali capitalismo industriale, a cui si riferiva Marco, il capitalismo finanziario, di cui abbiamo parlato, ma ci torneremo, e ci sono scoperte praticamente continue. Abbiamo il capitalismo del debito, abbiamo il capitalismo della sorveglianza, abbiamo il cybercapitalismo, abbiamo il capitalismo digitale, abbiamo il capitalismo consumistico, abbiamo il capitalismo di Stato, abbiamo n numero di interpretazioni e di incarnazioni del capitalismo. È molto difficile riuscire a trovare una armonia fra tutte queste numerose sfaccettature, ma c'è comunque, secondo me, qualcosa che lega diciamo negli ultimi 200 anni dalla rivoluzione industriale in poi tutti questi momenti diversi, che è il problema della distribuzione, perché ci si è soffermati moltissimo sul plusvalore, la generazione di plusvalore, sul capitale, sulla forza lavoro, sulla sovrappopolazione relativa, consolidata, eccetera, eccetera. Quindi si è dato un grande peso al momento della costruzione del capitale e del suo sviluppo, ma noi viviamo in un mondo che vive delle conseguenze di una cattiva distribuzione. Quindi avevamo accennato la volta scorsa alla miseria crescente. La miseria crescente non è altro che un incremento continuo di produttività che rende il funzionamento della macchina sempre più efficiente e sempre meno dipendente dalla forza lavoro, la quale viene progressivamente emarginata e tenuta in vita come massa che consuma. E per consumare ovviamente bisogna dare alla massa lo strumento per poterlo fare. E siccome questa produttività, che una volta, come diceva giustamente Marco, usavo per l'inclusione, oggi invece non è usata per questo, ma è usata per un accaparramento, un'accumulazione, l'unica cosa che rimane è il debito. E ci siamo soffermati a lungo in un incontro su questo argomento del debito. Però ci vorrei tornare, perché il debito noi l'abbiamo visto come una conseguenza di questa cattiva distribuzione o distribuzione ineguale, ma è molto di più. E la cosa stupefacente è che se ne erano accorti tutti, ma già 200 anni fa, da Nietzsche a Marx a chiunque, dicevano una cosa molto, molto importante, che il debito era in sostanza l'inizio di tutto. Noi abbiamo imparato dai soliti noti a immaginarci un mondo nel quale persone uguali entrano in contatto per scambiarsi o barattare. Quindi noi ci siamo creati un'immagine nella quale c'è simmetria tra quello che porta due galline con quello che porta il coniglio, e avviene questo magico scambio, cosa che poi abbiamo imparato non essere mai successa, per cui non c'è mai stato un coniglio contro due polli, per la semplice ragione che nessuno avrebbe avuto l'idea di che cosa valesse uno nei confronti dell'altro. Ma si parte da un rapporto non fra uguali, ma fra diseguali, ed è un rapporto fra il detentore del capitale e colui che chiede capitale, quindi il prestatore e colui che riceve il prestito. Quindi, come è scritto da varie parti, due persone che arrivano uguali a incontrarsi decidono di rimanere disuguali, di diventare disuguali e rimanerlo fino a quando il debito non si è estinto. Se noi vediamo il mondo in questo modo, ci rendiamo conto che dobbiamo andare a cercare questo rapporto tra creditore e debitore un po' trasversalmente su tutto quello che è successo. Allora, il, Il debito ha un... non sono fuori tema, anche se un po' sì, però è un ragionamento, quello sul debito, molto importante, perché colui che, abbiamo già detto, che colpa e debito si dicono nello stesso modo in tedesco, quindi il debito genera senso di colpa, perché evidentemente si pensa che si sarebbe potuto evitare di contrarre il debito. Ma nel momento in cui tu sei debitore, devi comportarti in un modo tale da poter rassicurare il tuo prestatore che tu sarai uomo affidabile e solvente. Quindi tu devi impostare la tua esistenza per dimostrare, per dare tranquillità a chi ti ha prestato i soldi, che tu ti comporterai in modo da poter restituire quanto gli devi, e quindi modificherai i tuoi comportamenti in modo tale da offrire questa presunta tranquillità. Quindi il debito, l'azzarato che ne ha scritto in lungo e in largo, diventa il più grande produttore di soggettività. Quindi la vera merce è la soggettività, quella che viene scambiata. Io metto in discussione la mia soggettività, la metto sul mercato per poter avere la possibilità di ricevere un prestito, e quindi assicurare ancora una volta che i miei comportamenti saranno coerenti e conformi. Sempre Lazzarato, in un altro libro, lo chiama debito, diventa un debito esistenziale, che secondo me è un termine molto efficace, molto potente. Il debito esistenziale è quello esattamente di cui abbiamo parlato fino adesso, ma se voi allargate la visuale da un punto di vista macroeconomico e comunque dal singolo soggetto alla collettività, vi rendete conto che non c'è un sistema di controllo e di condizionamento migliore di questo. Per cui nel momento in cui io, attraverso una cattiva distribuzione, mi approprio della maggior parte dei benefici generati dall'incremento della produttività e mi occupo di tenere in vita i consumatori attraverso il debito, ho preso due piccioni con una fava. Mi sono portato a casa la maggior parte di quello che è stato prodotto e allo stesso tempo ho creato un meccanismo di controllo su quelli a cui io ho prestato i soldi. Quindi sì, questo ragionamento che fa Lazzarato, ma non solo, fanno in diversi, ma Lazzarato ho poi visto nelle varie letture che è veramente diventato un punto di riferimento per tanti. Questo è un ragionamento che, non sono parole mie, va oltre, il debito va oltre e diventa praticamente... sovradetermina anche tutte le altre categorie di conflitto, quindi la lotta di classe, anche i ragionamenti politici di opposte fazioni. Il debito è regna sovrano su il panorama dei rapporti sociali. Questo a livello di individui. A livello di Stato, non di governo ma di Stati, è più o meno la stessa cosa. Nel momento in cui lo Stato deve provvedere ai servizi sociali, nella declinazione che volete voi, ma allo stesso tempo non riceve a livello di entrate fiscali quanto gli serve per erogare questi servizi, perché le leggi non sono state fatte a favore di una ridistribuzione, ma ancora una volta le leggi, come lo Stato, subiscono l'influenza dell'economia e di coloro che detengono il potere economico, non avendo una fiscalità che consenta di erogare i servizi necessari al contesto sociale, lo Stato si indebita. Lo Stato, quindi, sappiamo tutti gli indici di quanto percentuale del PIL, il 138, il 150, ma c'è una ragione fondamentale del perché questo questa proporzione, questo ratio, come si dice, continua a crescere, perché in sostanza i ricchi non pagano le tasse e quindi lo Stato deve fare debito. Chi sottoscrive il debito? Quelli che non pagano le tasse. E anche qui è il doppio premio, per cui da una parte non pago le tasse, dall'altra parte, non pagando le tasse, vengo anche remunerato per non farlo. Pensiamo solo un secondo a quello che ha fatto Trump appena è stato eletto. La prima cosa che lui ha fatto è abbassare l'aliquota fiscale dei ricchi, dei mega ricchi. Tant'è vero che Warren Buffett, che è stato l'uomo per tanti anni, decenni, l'uomo più ricco d'America, ha detto: c'è una guerra tra ricchi e poveri e noi l'abbiamo vinta. Perché dice: io pago un'aliquota fiscale molto inferiore a quella che paga la mia segretaria. Sempre parole sue. Si sono espressi nella identica maniera tanti altri, Bill Gates, e poi chiaramente sono lacrime strumentali finché si vuole, però il ragionamento è come noi conosciamo i grandi interpreti di questa commedia, che sono il Zuckerberg della situazione, Elon Musk, Bezos, eccetera, ma fondamentalmente lo stesso beneficio, la stessa struttura appartiene alle corporation. Corporation fanno e disfano. C'è una quantità di denari che extraterritoriali che noi non abbiamo nemmeno un'idea. Il buon Biden all'inizio ha detto: io cerco di farli rimpatriare con un'aliquota fiscale intorno al 15%, one off, una tanto, pagano e l'hanno mandato a stendere, perché loro volevano zero. Loro dice: no, noi abbiamo messo i libri delle nostre entrate nel paese tal dei tali, piuttosto che nello Stato tal dei tali, e lì rimangono. Quindi se non ci concentriamo su questo aspetto, perdiamo un po' di vista com'è la situazione. Abbiamo detto, nel 1944 viene stabilito da 44 paesi il futuro geoeconomico-politico che verrà, e quindi nascono la Banca Mondiale, nasce il Fondo Monetario Internazionale, e a un certo punto questo ragionamento viene a seguito della fine della guerra, c'è una ripartenza ed è sono circa 30 anni di inclusione, in cui, se voi andate a vedere le curve di distribuzione dei benefici della produttività, c'è una ragionevolezza, per cui il 60% di questa produttività, di questi benefici di produttività, viene detenuto dal capitale o trattenuto dal capitale, il 40% viene distribuito. Quindi le persone stanno meglio, c'è un benessere crescente, sempre più diffuso. E poi arriva una situazione per la quale gli Stati Uniti sono sempre meno competitivi a livello di qualità del loro prodotto, sono impelagati nella guerra del Vietnam che costa tantissimi soldi e non possono più mantenere il loro legame con l'oro, $35 l'oncia, come sappiamo. Ma non è un fatto politico, è un fatto di necessità economico-finanziaria. Quello stato dell'arte non era più mantenibile. E quindi liberi tutti. A quel punto il dollaro diventa moneta fiduciaria, perché non essendo convertibile, l'oro esce dal quadro. E ci sono molte letture anche a livello simbolico di questo avvenimento. C'è proprio la fuga dalla realtà, o perlomeno la smaterializzazione. Il denaro diventa infinito, perché non ha più un legame con la realtà, non ha più un legame fisico con nulla. E quindi chi decide quanto ne circola? evidentemente nel caso degli Stati Uniti la risposta è automatica. Ma senza andare a disturbare Freud e quant'altro, il famoso desiderio infinito si realizza, perché nella realtà, siccome io non ho un legame con la merce, non ho un legame con un fatto fisico, ma sono completamente svincolato da questo legame, io posso stampare moneta ad infinito e nessuno verrà a chiedermi ragione di quello che ho fatto. Questo è il mondo nel quale noi ci muoviamo. Voi direte sì, ma sono gli Stati Uniti, non è l'Europa, ma abbiamo tutti cognizione che quello che succede negli Stati Uniti ha un qualche effetto su di noi, ce l'ha. Il capitalismo finanziario non è, e qui arriviamo al discorso, non è un'evoluzione, per cui dice, sai, dopo il capitalismo industriale la fase successiva, quasi fisiologica, è il capitalismo finanziario. Il capitalismo finanziario è uno strumento, un sistema che si sviluppa in maniera prepotente dal 1971 in poi e si porta dietro anche tutto il lato politico. Perché? Perché nel momento in cui la finanza domina e la produzione diventa meno importante, i massimi sistemi si devono allineare con la volontà di quelli che hanno la finanza sotto controllo. E quindi l'ultimo incontro ci siamo soffermati sul fatto che questa volontà di controllo, di manipolazione, di influenza viene esercitata, rimaniamo sempre negli Stati Uniti, con una grande strategia, con una strategia estremamente attenta, estremamente lungimirante. Quindi, cosa che ho detto l'altra volta, non esiste quel capitalista americano col sigarone, esiste, ma ha una testa molto più fina di quella che gli venga attribuita normalmente. Per cui cosa fanno questi signori? Si preparano a economizzare la vita sociale, politica, istituzionale. E come lo fanno? Lo fanno, come abbiamo raccontato l'altra volta, attraverso un condizionamento estremamente accurato, estremamente metodico, che parte da creare una specie di controinformazione. Quindi la sinistra è depositaria della generazione di idee di cambiamento, di evoluzione, se non di rivoluzione. Loro dicono, bene, dobbiamo affrontare questo nemico con le stesse armi. Quindi creeremo delle fabbriche di idee da opporre diciamo, al sistema liberal, radical e via dicendo. E quindi arrivano a creare fondazioni nelle fondazioni, a creare borse di studio, a creare intere cattedre, a finanziare intere università, e attraverso quest'opera di condizionamento che ci ha messo decenni a entrare a pieno regime, ecco che Reagan riceve praticamente, ammettiamo per una facilità di calcolo, 100 disposizioni governative di Reagan, 70 vengono da questo che è una specie di libro bianco che queste fondazioni, senza fare nomi e cognomi perché sono più di una, gli ha consegnato, che si chiama Mandate for Leadership, quindi mandato per guidare gli Stati Uniti. Arriva Trump e riceve esattamente il secondo volume del Mandate for Leadership. E anche lì la percentuale delle disposizioni di Reagan ricopre, diciamo, più o meno quella percentuale. Quindi, diciamo, per essere ottimisti, due decisioni su tre vengono ispirate da questo modo di ragionare. Adesso voi, cioè Trump viene messo sotto processo, ha 91 carichi per dirti e via dicendo. La cosa che si scopre è che molti dei giudici che devono diciamo essere coloro che presiedono ai vari processi, molti di loro sono stati o nominati o appartengono a questo genere di società. C'è questa società che si chiama Federalist Society, per cui tranne uno, i componenti conservatori della Corte Suprema, tutti tranne uno, sono un'emanazione di questa Federalist Society, e giudici di corte d'appello, ce n'è per tutti i gusti. Quindi quello che voglio dire è che non è più un'economia, noi abbiamo parlato, no? L'economia sembra un corpo estraneo rispetto alla vita di tutti i giorni, ormai l'economia è politica, l'economia è governo, l'economia è gestione, e tutto quello che avviene ha una sua ragione d'essere precisissima, che è legata al potere economico e al controllo di quello che è la distribuzione di questo potere e diciamo proprio tutte le modalità. Una cosa di cui abbiamo parlato recentemente è anche un po' il modo in cui noi guardiamo queste cose. Dice: il capitalismo è morto, il capitalismo sta morendo, è potenzialmente morto, virtualmente morto, praticamente morto. Ma il nostro ragionamento, il mio ragionamento è: ma qualcuno, anche se così fosse, se ne accorgerebbe o se ne è accorto? Qualcuno ha alzato il dito dicendo: il re è nudo, il capitalismo non c'è più, oppure non chiamatelo più capitalismo, chiamatelo in un altro modo perché ha cambiato pelle 63 volte. Noi viviamo in un mondo in cui veniamo tranquillizzati continuamente. Margaret Thatcher diceva: non c'è alternativa. Il capitalismo è l'unica cosa che noi dobbiamo tenere, perché anche fosse anche la cosa peggiore del mondo, le altre sono più peggiori, no? E qualcuno ha scritto che si fa meno fatica a immaginare la fine del mondo che immaginare la fine del capitalismo. Questo ragionamento ci ha servito. Noi, se vi ricordate, chi c'era quando parlavamo della finanza e del linguaggio, del lessico della finanza, parlavamo di una neolingua, parlavamo più o meno di una lingua alla George Orwell, in cui il ministero della guerra diventa il ministero della pace. Quindi questa legittimazione, questa tranquillizzazione, questa cloroformizzazione è stata qualcosa che forse desideravamo noi in primis, volevamo essere in qualche modo tranquillizzati. Quindi è stato tutto assorbito come le crisi. No, ma quale crisi? La crisi c'è, poi la crisi passa. Queste enormi sovvertimenti, esplosioni, implosioni, però poi alla fine tutto si compensa. E c'è stata un'intera scuola di pensiero, varie scuole di pensiero che ci hanno rassicurato, i grandi economisti ci hanno detto: state tranquilli, funziona così, il mercato si riaggiusta, no? L'economia classica diceva che poi lasciate che il mercato lavori perché il mercato si aggiusta. Poi arriva un signore come Keynes e dice: ma aspettate un momento, ma a quale prezzo, ammesso che questo succeda, a quale prezzo dobbiamo pagare per tutto questo? E quindi qualche dubbio sul fatto che socialmente sia accettabile che si lasci il mercato andare per conto proprio comincia a sorgere. Poi arriviamo a una scuola di pensiero che dice, i cosiddetti ordoliberisti dicono: no, il mercato va lasciato, però va lasciato andare per verso suo, ma lo Stato deve essere garante, deve fare l'arbitro della libera concorrenza. Quindi bisogna che lo Stato si attivi per garantire, mantenere le regole del gioco uguali per tutti, e che quindi lo Stato nasce e vive e si giustifica per il ruolo che ha nel lasciare che l'economia abbia tutto il suo sviluppo, faccia tutto il suo sviluppo, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto questo non accade per caso. Qualcuno parlava della scuola di Chicago. La scuola di Chicago di Milton Friedman è un'emanazione di von Hayek, il quale faceva la spola fra Friburgo e Chicago, quindi Milton Friedman e tutti gli altri che sono venuti dopo avevano un filo diretto a livello, diciamo, ideologico, filosofico. Ma questo non basta più. Oggi come oggi lo Stato deve fare molto di più. Lo Stato deve essere a disposizione dell'economia e quindi permettere all'economia di assolutamente dominare la scena. E qui entra in gioco il concetto di capitale umano di cui avevamo parlato. Quindi lo Stato deve sostituirsi allo Stato precedente per garantire le condizioni della concorrenza. Quindi siamo tutti concorrenti, siamo tutti il nostro capitale umano è in diretta concorrenza con tutti gli altri, e lo Stato deve non favorire delle categorie verso altre. Quindi, oggi come oggi, noi viviamo in uno Stato di, più o meno di questo genere. Allora, sempre anche una questione linguistica, la flessibilità. Oggi si parla di flessibilità. Poi capiamo che la flessibilità assomiglia tanto alla precarietà. E poi capiamo che la precarietà assomiglia tantissimo alla proletarizzazione. Però le parole sono quelle più tranquillizzanti, per cui teniamo la flessibilità. Quindi bisogna essere competitivi, concorrenti, fare il nostro massimo, autoregolarci, migliorare il nostro rating, investire su noi stessi, e quindi diventiamo tutti imprenditori di noi stessi, con lo Stato che apparentemente dovrebbe regolare, che questa competizione, regolare e far sì che questa competizione sia una competizione tra soggetti che non hanno privilegi l'uno rispetto all'altro. Nella realtà questo è assolutamente utopico e non è mai successo. Prova ne sia che arriviamo poi all'altra data importante, che è il 2008, basta andare a vedere cosa è successo. Il 2008 lo Stato è intervenuto, quindi lo Stato che doveva essere Stato minimo perché deve farsi i fatti suoi è diventato Stato massimo, perché è diventato il prestatore di ultima istanza. E chi ha tirato fuori dai guai? Allora, ci sono milioni di persone negli Stati Uniti che avevano, come dicevamo, contratto dei debiti che non sarebbero mai diventati esigibili. Ma non perché loro sono andati con la pistola dal bancario di turno a estogliergli un prestito, ma perché sono andati i venditori delle banche, non solo, a offrirgli dei mutui a delle condizioni favorevoli a persone che altrimenti non avrebbero mai avuto una possibilità. Quindi ci sono stati milioni di persone le quali, anche non avendo fatto degli errori a livello, diciamo, di rapporto patrimoniale particolarmente gravi, sono finiti in mezzo a una strada. E questi sono rimasti in mezzo a una strada. Le cosiddette foreclosures, quindi io vengo, chiudo casa, tu vai per conto tuo, dopo 4 ore o hai finito di portar via la tua roba o ti chiudo la casa. Ma le banche sono state salvate tutte. Le banche sono state salvate tutte, tranne una. Ma è chiaro che, no, com'è che dicevano? Se ne punisce uno per... E quindi Lehman Brothers è quella che ha fatto... No, dice, ma non è vero, Lehman Brothers, dice, ma gli altri ne sono usciti addirittura in condizioni migliori di come erano entrati nella crisi. Goldman Sachs una per tutte, abbiamo raccontato l'altra volta come aneddoto che Goldman Sachs a un certo punto stava sull'orlo del disastro, è andata da Warren Buffett, lui sì come prestatore di ultima istanza, lui aspettava solo quello, li ha presi per il collo e non solo, e ha fatto un prestito in obbligazioni convertibili e li ha spolpati fino al collo, fino all'osso. Ma cos'è che voglio dire? Lo Stato, che avrebbe dovuto essere uno Stato leggero, uno Stato sostanzialmente arbitro di una gara, di una competizione, nella realtà a un certo punto è dovuto intervenire a salvare il sistema. E uno dice sì, ha salvato il sistema perché, come dicono, no, il capitalismo davanti a tutto bisogna salvaguardarlo, perché l'alternativa è peggiore. Ma nella realtà il sistema non è stato salvato. Il sistema è stato condannato. Le persone, cioè Keynes, la cosa che diceva, è che una delle cose che diceva è che la disoccupazione, il suo trattato più importante è trattato sull'occupazione. Il primo tema di cui lui parla è l'occupazione, poi l'interesse e poi la moneta. Quindi quello che diceva Keynes è benissimo, ma queste percentuali di persone che rimangono a casa sono sangue, sudore, lacrime. Sono persone che non possono mandare i figli a scuola, che non possono dare loro da mangiare, che vivono una vita indegna di essere vissuta. Per cui questo ragionamento in qualche modo deve essere giustificato, cioè questo sacrificio deve trovare una giustificazione. E chiaramente la giustificazione è nel cambiamento di quello che era un contesto sociale, nel momento in cui al posto della solidarietà c'è la concorrenza, al posto di un tessuto connettivo l'individuo è da solo, l'individuo lotta contro tutto e contro tutti per conto suo. È chiaro che questa è la giustificazione a monte per poi poter dichiarare che quello che è successo era inevitabile. Ecco quindi che, come qualcuno ha scritto, secondo me in modo corretto, la concorrenza è una guerra, ma che non finisce mai. Perché la guerra a un certo punto, in un modo o in un altro, termina. La concorrenza è un fatto esistenziale, ancora una volta. E la concorrenza porta, come è automatico capire, alla disuguaglianza. La disuguaglianza porta al fatto che ci siano vincitori e vinti. E per i vinti non c'è misericordia. I vinti vengono abbandonati a se stessi perché un'altra volta lo Stato è talmente esangue da non poter tenere una rete di protezione viva per queste persone. Quindi siamo andati in una direzione completamente diversa, ma non possiamo, il mio pensiero è questo: non possiamo non tener conto di queste regole del gioco, perché se no parliamo di un gioco completamente, cioè parliamo di pere sono mele. Il gioco ormai è questo qui. Il gioco è, e lo scriveva gente 50 anni fa, 40 anni fa, parlavano del terzo mondo come distribuzione ineguale, no? La distribuzione ineguale è tra di noi, è dentro il nostro sistema. Quanto potrà durare tutto questo? Questa crisi, no? Dici, ma cos'è questa crisi? Ma è uno stato di crisi permanente. Marx diceva che il capitalismo e la borghesia è in continuo cambiamento e distrugge qualsiasi valore per crearne, ammesso e non concesso, di nuovi. Quindi la crisi è una parte fisiologica dello sviluppo. Ma oggi credo che siamo molto oltre quello che poteva essere uno sviluppo ragionevole, ammesso che abbia un senso parlare di sviluppo ragionevole. Cioè, parlavamo con Flavio prima, che nel 1970 esce, me lo ricordo, un documento che si chiamava I limiti dello sviluppo, che era stato commissionato da questo club di Roma all'MIT di Boston. Non un documento, diciamo, voluto da rivoluzionari pericolosi, ma da persone, diciamo, borghesi, normalmente pensanti. E il documento che viene restituito, che quindi non doveva avere una matrice ideologica, mostra che lo sviluppo ha dei limiti. Lo sviluppo ha dei limiti, per cui sia per la popolazione, sia per l'esaurimento delle risorse a disposizione, sia per il problema ecologico, bisogna ragionare su che cosa si può fare, che cosa si deve smettere di fare e che cosa non sarà più possibile fare nel futuro. Ma questo è nel 1970 e è stato ascoltato. In quale percentuale non lo so, ma è stato un documento che fece scandalo sia da una parte che dall'altra, perché per la prima volta si metteva in discussione che il modello capitalistico aveva, si diceva che in qualche modo aveva dei limiti, che doveva fermarsi, che doveva ragionare, che aveva delle responsabilità allargate, quelle che si chiamano adesso esternalità, sul pianeta addirittura, no? 20 anni dopo viene scritto viene fatto un aggiornamento che si chiama Oltre i limiti dello sviluppo, che va esattamente nella stessa direzione. Ma fu uno scandalo allora, fu uno scandalo perché qualcuno, non a livello di contestazione, aveva comunque posto delle domande, aveva fatto delle domande su che cosa sarebbe potuto succedere. Non, dal mio punto di vista non è cambiato moltissimo da allora, perché soprattutto con il discorso della finanza, col discorso di questo capitalismo virtuale in cui la moltiplicazione va verso l'infinito, senti ancora fare gli stessi ragionamenti. Ma per fortuna hanno trovato un giacimento di petrolio di 16 trilioni di barili. E tu dici, fantastico, e dopo con questi 16 trilioni di barili che cosa sarà rimasto di noi? Perché finisce molto prima il pianeta di quanto finiscono 16 trilioni di barili. Per cui la crisi, torniamo al tema, detto rozzamente, molto rozzamente, quello che io percepisco è un continuo tentativo di estrarre ricchezza, valore, in qualsiasi modo possibile, oltre la produzione, oltre l'utilità, oltre la funzionalità. E quindi questi tipi di capitalismo, ammesso che siano in sequenza o invece coesistenti, mi raccontano più o meno la stessa storia. Uno dei capitalismi che ho menzionato e che abbiamo trattato di sfuggita l'altra volta è il capitalismo della sorveglianza. È un libro scritto da questa professoressa di Harvard, quindi anche lei non l'ha scritto alla Calusca, nel quale si dice che scompare la fabbrica perché il mondo diventa la fabbrica. Scompaiono gli operai perché noi siamo gli operai, siamo noi che forniamo la materia prima. Qual è la materia prima? Sono i dati che ci riguardano. Quindi l'estrazione dei dati, del nostro, lei lo chiama il nostro surplus comportamentale, sono la materia prima. Noi siamo i servi della gleba che gratuitamente forniscono a tutti i grandi che conosciamo, e quindi noi siamo produttori di merce non remunerati, se non gratificate dal fatto di avere accesso a Google piuttosto che a Facebook e via dicendo. Ma come puoi inquadrare a livello economico, finanziario, monetario, valoriale un genere di capitalismo di questo, di questo tipo? Io non riesco a darmi una risposta, se non constatare che da una parte c'è chi ha questo esercito di inconsapevoli servi della greba, inconsapevoli fino a un certo punto, da una parte, e dall'altra pochissimi che sfruttano queste queste gratuità per fare poi chiaramente per condizionarci, per dirigerci, per darci le informazioni, per in qualche modo condizionare il modo in cui noi consumiamo, che poi è quello. Quindi questo è un altro tipo di capitalismo. Il capitalismo del consumo, che si collega a questo, anche qui tutti cercano di scavalcare il meccanismo della produzione di cui parlava Marco, no? Quindi il capitalismo industriale, che ha le sue belle regole, plus valore relativo, assoluto, cercano tutti di scavalcarlo. E questo capitalismo del consumo sostituisce il consumo alla produzione, ma sostituisce un mondo, che è quello della produzione, che è un mondo reale, con un mondo irreale o iperreale. E quindi noi siamo portati lontani da quello che è utile, da quello che è funzionale, da quello che è connaturato alle nostre necessità, ai nostri bisogni, e veniamo portati in una sfera che è il metaverso, che è il consumo di servizi, prodotti che sono immateriali, ma ancora una volta stimolati all'infinito, per cui è una specie di Truman Show, è una specie di Matrix, si crea un mondo parallelo, il quale diventa più importante del mondo reale, anche perché non ti viene data la possibilità fino in fondo di capire in quale dei due mondi sei. Quindi ecco che anche questo chiaramente è una forma di capitalismo, dove c'è qualcuno che guadagna e qualcuno che paga. È cambiato il modo in cui si paga? Secondo me non è cambiato il modo in cui si guadagna, per cui alla fine ognuno paga con la propria vita, come abbiamo visto, il debito esistenziale, con l'estrazione di surplus comportamentale, con la partecipazione a questo mondo parallelo diverso, però alla fine, come dicono gli americani, segui il denaro finisce sempre nello stesso modo e finisce sempre nelle mani dei soliti noti, Flavio ride. E quindi, dopo questa confusione sotto il cielo di Danimarca, dove c'è del marcio, il mio ragionamento è un ragionamento di torno a quello che ci siamo detti la volta scorsa, no? È la lotta all'eufemismo di questo Marco Deramo, che ha scritto questo libro secondo me molto intelligente, che si chiama Dominio. Lui dice dobbiamo lottare con tutte le nostre forze contro l'eufemismo. L'eufemismo non è una delicatezza lessicale, l'eufemismo è violenza allo stato puro, ma velata, ma camuffata. E quindi dobbiamo tornare a parlare una lingua che sia in qualche modo vicina alla realtà. L'altra volta abbiamo parlato di tutte queste meravigliose diciamo nuove forme, nuove frasi, nuove formule, che erano la governance, che erano le best practices, che era il benchmark, che era tutto quello che e il soft power cosiddetto, no? E il mio invito è quello di andare oltre alla favola che ci viene raccontata. Non è vero che la governance è l'unico modo moderno per gestire. La governance è una presa in giro, perché è un modo di rendere la gestione del potere apparentemente un'operazione di buon senso, un'operazione procedurale. Quindi e lì arrivano le best practices, si deve fare così perché in quell'ambito lì si fa così, bisogna sempre essere assolutamente allineati col benchmark, perché è il migliore, bisogna fissare lo standard, l'asticella, e sembra che la vita delle persone sia ancora una volta un discorso di pedine economiche, di protagonisti di un mercato, di capitali umani. Questo è un'altra narrazione, una favola che non è la realtà, è un modo di interpretare la realtà che fa comodo evidentemente a molte persone, e ho un numero sufficiente di persone per averlo proposto e imposto. Ma Gramsci li chiamava, l'ho citato 100 volte, sono gli esperti di legittimazione, vengono legittimati dei criteri in cui tutto sembra un'azienda, e quindi gli stati hanno un rating, poi devi avere i servizi che vengono erogati vengono benchmarkizzati, vengono valutati a seconda determinati parametri, determinate, è tutto algoritmizzato. È un mondo che non è solo eufemismo, è un eufemismo parlare di eufemismo, questa è una manipolazione, una presa in giro quasi mortale. E quindi la situazione è molto, dal mio punto di vista, è molto più grave di quello che sembra. Ci hanno raccontato tante belle cose, i sistemi in equilibrio, che poi alla fine tutto si compensa, che c'è comunque sempre le magnifiche sorti progressive, che tutto procede secondo lo spirito del tempo che avanza e progredisce. Io ho dei grossi dubbi, perlomeno a livello di siamo in 8 miliardi, non si può pensare come Atene la democrazia è perfetta, erano 5.000 con 50.000 schiavi, bisognava forse intervistare gli schiavi per sapere se era una democrazia perfetta, però quello che ci è stato tramandato è che Pericle e quant'altro erano illuminati eccetera eccetera, ma lo stesso Nietzsche diceva che gli schiavi erano necessari perché uno come lui potesse passare il suo tempo a pensare. Discutiamolo, insomma, non è proprio necessariamente questo. Certo che se, e qui il termine è azzeccatissimo, c'è un'irresponsabilità sociale, amministrativa, fiscale, totale, alla fine chi se ne frega? Cioè noi siamo, secondo me, in una condizione di chi se ne frega, dove va bene a quelli che poi ti dicono che va bene per tutti, e quei tutti non sono da quella parte lì, sono dalla parte sbagliata della storia, dell'economia. Quindi, non so se sono rimasto nel tema, penso proprio di no, ma forse anche non voglio rimanere nel tema. Cioè questo è un balletto che ha rotto i coglioni. Cioè questa storia di leggere questi personaggi, leggere cosa scrivono questi personaggi che descrivono una situazione e non traggono mai le conclusioni. A un certo punto non ci sarà cibo a sufficienza perché la popolazione cresce troppo in fretta. Potevano dirlo 2 milioni di anni fa e avrebbero dimostrato che si sarebbe dimostrato che non era vero. Perché non c'è abbastanza? Perché se a un certo punto uno mangia per 100 e gli altri 99 cosa fanno? Mangiano quello che ha mangiato per 100. Mi auguro poi alla fine che succeda questo. Per cui un filosofo francese dice una cosa giustissima. Diceva: bisogna vedere i veri rivoluzionari che sono le grandi università francesi e americane. Marx diceva: quando piove bisogna vedere sotto quale tetto la gente si rifugia. E lui diceva: i primi che sono contro la rivoluzione vera sono quelli che teorizzano la rivoluzione, perché sennò la loro professione a un certo punto scompare. Quindi sono i primi che vogliono che lo status quo rimanga questo e poter continuare a parlare e a prendere i soldi della cattedra, no? Quindi Novelli, che è stato menzionato, che è questo mio amico, nostro amico, è anni, decenni che lotta per riuscire a estrarre una pagliuzza di verità da una tonnellata, da tonnellate e tonnellate di notizie fittizie, elaborate, manipolate, e lui riesce con un lavoro pazzesco, perché della realtà vera non si può parlare. la realtà com'è non è plausibile. Quindi tutti i ragionamenti che si fanno, mio modestissimo punto di vista, quindi c'è la teoria di quello, la teoria di quell'altro, che bisognerebbe fare questi interventi, eccetera. Stiamo parlando di palliativi, non stiamo parlando, ma soprattutto non stiamo curando quella malattia lì, perché non vogliamo assolutamente nemmeno citarla, menzionare di che malattia siamo malati. E perché il progresso è sempre andato così, c'è chi rimane indietro e chi va avanti, ma nel momento in cui chi va avanti è una minoranza risicatissima, non si parla più nemmeno del primo 1%, si parla dello 0,1%. Nel 2035 avremo il primo trilionario. E sembra, non so, dice, finalmente andremo, avremo le ali e voleremo su Marte da soli, cioè sembra una conquista meravigliosa, il primo trilionario. Se ha poi la faccia da culo di Musk, anche no, capito? Per cui stiamo parlando di una cosa che secondo me non esiste più, cioè non c'è un sistema, non c'è un sistema, è un arrangiarsi per riuscire a trovare una nuova forma di sfruttamento e le si sta provando tutte. Siamo passati ai mutui subprime, se volete era una cosa per bambini, era una cosa banale, no? La cartolarizzazione dei mutui subprime, eccetera eccetera, poi, ma era alla fine artigianato. Oggi siamo in un'altra dimensione ancora, oggi siamo in una dimensione assolutamente simbolica, una dimensione fantasmatica in cui parliamo di cose che, sì, la ChatGPT piuttosto che il metaverso, piuttosto che quello che volete voi, ma alla fine l'odore è sempre quello lì. Ed è un brutto odore, non ce n'è. Hanno commissionato uno studio per risolvere dei problemi in una città americana con grossissime difficoltà di quartieri periferici degradati, eccetera eccetera, e hanno affidato lo studio a computer, intelligenza artificiale, eccetera. Il risultato è stato che al posto di suggerire un impulso alla crescita è stato dato un input completamente opposto. C'è troppa crescita, c'è troppa entropia, troppa distruzione e soprattutto questo non porta a distribuzione. E torniamo ancora lì. Io posso produrre... Il mondo muore di fame non perché manchino risorse, le risorse ci sono, ma vengono sprecate da chi le può sprecare. Il famoso discorso degli abiti, milioni di tonnellate, della moda pronta che vengono a inquinare di qua e di là, eccetera, eccetera. Non è mancanza di produzione, assolutamente no. Quindi i limiti dello sviluppo non sono dei limiti lineari fisiologici, non c'è abbastanza di quel materiale, non c'è. Certo che se io devo costruire un'auto elettrica che va a 600 all'ora e ha 12.000 cavalli, certo che il mondo finisce più in fretta, ma quella macchina lì non serve a nulla, non dovrebbe nemmeno esistere. Per cui i limiti dello sviluppo sono molto più i limiti della divisione, della distribuzione delle risorse e dei profitti e delle ricchezze. Non c'è niente di inevitabile. Qualcuno ha scritto: la disuguaglianza non nasce dalla natura, nasce dalla politica. La disuguaglianza è una decisione politica, è un fatto politico. E ci sono studi serissimi che prendono in esame millenni e tutte le volte si trova la stessa situazione. Non è una situazione di penuria di materia prima, ma è sono i sistemi con cui si governa, con cui si distribuisce. Un economista, uno storico economista, ha scritto un libro bellissimo tanti anni fa che si chiamava Vele e cannoni, in cui nella parte delle vele lui diceva che sono arrivati prima a, diciamo, colonizzare l'America portoghesi e spagnoli perché avevano avuto l'oceano, e l'oceano era una brutta bestia, mare, onde grandi, lunghe, eccetera, per cui di necessità virtù avevano preso le barche e le avevano fatte a V, e quelle andavano meglio in oceano rispetto ai galeoni. Quindi non è vero che chi non ha materie prime, risorse, eccetera, è un discorso di tipo politico. Si fa in un determinato modo, si vive in un determinato modo, si decide di vivere in un determinato modo. Noi abbiamo ancora la possibilità di decidere di non vivere nel modo in cui viviamo, perlomeno di non aderire così acriticamente a una società che ha questi, che il capitalismo sia morto o non sia morto, ma non è nemmeno un fiume carsico, nel senso che il fiume carsico è lo stesso quando entra e quando esce, l'acqua è la stessa. Questa non, tu non sai che acqua verrà fuori, sai però che quello che la imbottiglierà è sempre quello, che sia buona o cattiva, c'è sempre qualcuno, i soliti sospetti. Bravo. Certo. Sì? Non c'è più la voce? Ah. No, allora è chiaro che c'è una massa di informazioni, di ragionamenti. Quindi se qualcuno vuol fare qualche domanda o qualche considerazione o qualcosa, viene qua e la può fare. Può anche stare là. Può anche stare là. Certo, l'unica cosa che posso aggiungere io, però questa potrebbe essere un'altra serata. Lo so, parlo, ma... Sì. Va, boh. Adesso si sente meglio, però. No, dicevo, un'altra cosa è che a questo mondo doppio, no? Perché a un certo punto, in alcuni passaggi, continuiamo a vedere un mondo doppio. Poi... dovremmo ricondurlo comunque a quello che quella che lui poi ha chiamato la narrazione, insomma tutte queste cose che ci propinano, ma nel frattempo qualche cosa, qualche prodotto e qualche risultato sul campo si vede. Cioè, prendiamo due esempi semplici, Ucraina e Palestina. E allora questi due fatti, non c'è più l'eufemismo, no? Si tratta di fatti concreti. E allora in che termini questi fatti sono riconducibili a questa situazione del capitalismo morto, no? O perlomeno di quello che pensiamo sia morto, e in che termini tutti questi meccanismi portino oggi a vedere questi due scenari, cioè Palestina e Ucraina, e in che rapporto questa tendenza possa generalizzarsi per andare a generare un conflitto ancora più ampio e con protagonisti ancora più convincenti, perché oggi come oggi sarebbe un po', dice, parlavamo prima con Massimo, tanto per parlare, come se io e Cassius Clay mettiamo in piedi un incontro di pugilato, no? È un incontro impossibile, no? È quello che si sta vedendo, con il rispetto, chiaramente, perché si tratta di morti, sangue, vittime, bambini, vecchi, anziani, e chi ne ha più ne metta, ma oggi come oggi sono impari. quello di cui il capitalismo aspira e potrebbe volere, ma al momento non trova il candidato per mettere in piedi questo incontro, e bisogna trovare qualcuno che abbia un peso, lo dico così, molto semplice per capirsi, qualcuno che possa fare la guerra agli Stati Uniti. Ecco, questo è la questione piuttosto complicata, ma ne parleremo. Comunque, intanto, nel frattempo, tante altre cose vedremo. Comunque, dai, se qualcuno ha qualcosa da dire, viene qua. Ma tanto per continuare a far due chiacchiere, gli Stati Uniti sono ovviamente il centro dell'attenzione, sempre il centro dell'attenzione, ma quello che succede ha delle caratteristiche specifiche, ma anche delle caratteristiche generali, perché pensate al, limitiamoci ai fatti, a quanto costa una campagna elettorale e perché fondamentalmente rimangono in piedi Biden da una parte e Trump dall'altra. Al di là di tutto, c'è un ragionamento molto venale. Con i soldi che sono già stati investiti sia sull'uno che sull'altro, ricominciare da capo, investire su un altro candidato, è una follia. Quindi, abbiamo un personaggio come Biden che è un grande, diciamo, ha una storia di 50 anni da funzionario politico, no? E dall'altra parte sostanzialmente un delinquente, un personaggio completamente fuori di testa, manipolato e manipolabile, e che risponde semplicemente ai propri interessi e agli interessi della stretta cerchia che lo circonda. Ma per entrambe sono già stati spesi miliardi. E quindi chi può produrre un differenziale di impatto rispetto al differenziale di soldi che ci vorrebbe per far emergere un altro candidato? Domanda oggi per... non c'è. Quindi, ma per diventare lo sceriffo della contea devi far campagna elettorale. E lo sceriffo della contea probabilmente non ti costa un miliardo ma di dollari, però ti costa magari 100.000 dollari. Per cui lo sceriffo, il candidato sceriffo, c'ha i soldi per fare 100.000 dollari di campagna elettorale? No, però ha degli amici. Nel momento in cui queste cariche necessitano di comunicazione, e cadiamo nel solito loop. Vedevo Toti, scendiamo sulla terra, Toti e Spinelli sullo yacht, e uno dice: ma questi due... ma nella realtà, quello di cui parlavamo prima, non c'è più parte contro parte, stanno tutti e due dalla stessa parte. Appunto, capito? Per cui sai, i macrosistemi, il potere economico che condiziona la politica e quello e quell'altro, ma basta andare sullo yacht di Spinelli, dove cazzo era, Santa Margherita. Le voilà, anche nelle cose più, diciamo, meno eclatanti, meno sofisticate. Sì, però in questo cazzo di microfono non funziona. Però in questo passaggio, come ne parlavamo prima, c'è una mutazione, no? Perché facciamo così per capirsi con gli esempi: al tempo di Craxi andavano da lui, qui invece al tempo di Totti è Totti che va da loro. Vabbè, insomma, ragionamenti Ma una delle cose da ignorante che sto apprendendo volta per volta è che c'è una grande convergenza di tante discipline che una volta si occupavano di cose distinte l'una dall'altra, stanno tutte convergendo a occuparsi di questo problema, del problema della disuguaglianza, della cattiva distribuzione, dell'accaparramento, dell'ingiustizia sociale, del disfacimento e via dicendo. Quindi è la scoperta dell'ignorante, questi esistono da tanto tempo, però quello che posso dire è che anche tutto quello che viene pubblicato è molto indirizzato, quindi c'è una sensibilità che probabilmente c'è sempre stata, ma mi sembra una sensibilità che preannuncia che questo sta diventando il problema. Lo è già, ma anche a livello di percezione e di consapevolezza. Anche se, come diceva Flavio, il capitalismo è talmente impalpabile che siamo tutti in un sistema capitalismo senza rendercene conto, insomma non facciamo mente locale su che cosa ci circonda, stiamo sul micro e non allarghiamo il campo visivo. Niente, se poi qualcuno è a ridaglia stesso butto via. Sì, dai, vieni. Guarda, c'è anche la sedia pronta, guarda là. Microfono. È come questo qua. Comincerei a fare un confronto fra due tipi di crisi, quella degli anni 70 e quella del 2008, per vedere se ci sono differenze. Dunque, quella degli anni 70 è una classica crisi, come diceva già Marx a suo tempo, di caduta tendenziale del saggio di profitto. Cioè lo sviluppo industriale, quindi l'accumulazione di macchinari, quindi di capitale fisso che va valorizzato, a un certo punto richiede una massa di plusvalore non solo in aumento, ma anche esponenziale per valorizzare questa massa di capitale fisso che viene continuamente aumentato. Arriva a un certo punto che il plusvalore prodotto non è più in grado di valorizzare, almeno non in senso assoluto, in senso relativo parliamo, perché è quello che conta poi per i capitalisti. E quindi si ha un rallentamento dell'accumulazione fino ad arrivare a un blocco, a una crisi, a un quasi fermo dell'accumulazione. Questo che è avvenuto negli anni 70, l'abbiamo visto, insomma, poi è cominciato a chiudere le industrie. Cioè, come si risolve questa crisi classicamente? Chiudendo le industrie, cioè eliminando capitale fisso in sovraccumulato, e quindi poi chi rimane, cioè c'è un processo di concentrazione, molti falliscono, eccetera, e chi rimane riesce a recuperare un saggio di profitto accettare, poi nel frattempo i salari cadono, c'è disoccupazione, eccetera, eccetera. Ora, questa era la crisi classica, no? Però negli anni 70 c'è stato qualcosa di diverso, cioè questo capitale, diciamo, non investito nel capitale fisso, nell'accumulazione, prende la strada della speculazione. Quindi capitale costante, scusa, rispetto a quello variabile che sarebbe la forza lavoro. questo capitale che girava, diciamo, che si fondeva, quindi cresceva, eccetera, eccetera, prende la strada della speculazione finanziaria, cioè dell'investimento in azioni non, che crescono indubbiamente, aumenta quindi il debito, comincia tutti i processi che tu dicevi, e da questo non se ne esce più, perché nonostante che si stampi denaro, però il gioco continua fin quando arriva nuovo capitale dentro il gioco, diciamo, della speculazione. Se non ne arriva più, finisce il gioco. Quindi, sì. Quindi il gioco non si arresta più, va avanti e continua. Per cui da dove vengono questi capitali che passano al capitale finanziario o alla speculazione finanziaria? Dalle grandi corporation stesse. Cioè sono dagli stessi manager che comprano le loro azioni per farle crescere e hanno le stock option, cioè le loro... Sì. A proposito, sempre in uno degli incontri, tu credo tu ci fossi, abbiamo menzionato questo caso di questa catena americana che si chiama Bed, Bath and Beyond, quindi letto, bagno e oltre, che ha fatto esattamente quello che dici tu, cioè loro hanno indebitato, i manager hanno indebitato l'azienda per comprare le proprie azioni, per ridurre quindi il numero delle azioni, migliorando gli utili per azione sulla quale loro erano remunerati. In più, con le stock option, loro sono riusciti a comprare azioni. Nel momento in cui le azioni andavano su, vendevano, c'era il capital gain, che era molto inferiore alla tassazione dei dividendi. Per cui i manager, che erano più speculatori degli speculatori di borsa, hanno fatto questa roba qua. E loro si sono messi a posto. I libri sono finiti in tribunale, l'azienda è fallita. Sì, è uno di questi giochi che dice. Comunque, dicevo, chi è che sono la stessa corporation che fanno queste... Quindi il capitale che affluisce nella speculazione finanziaria è comunque prodotto dal plusvalore. Una parte viene anche fittizio, come dicevi tu, cioè viene stampato, però il plusvalore esiste ancora. Se non è solo nell'Italia, sarà da qualche altra parte prodotto. Adesso poi c'è tutto il ragionamento che non abbiamo fatto, abbiamo fatto la volta scorsa. Il ragionamento che abbiamo fatto su profitto e rendita, no? Per cui come il capitalismo è passato dalla rendita, proprietà agricole, feudali, eccetera, al capitalismo industriale, quindi al profitto, e come in molte situazioni stia ritornando alla rendita. Quindi, al di là delle rendite vere e proprie, quelle da materie prime, c'è questo discorso delle rendite dei big data, no? E quindi io cosa faccio? Difatti si chiama anche mining, c'è tutto anche un lessico legato all'antico, ma fondamentalmente una volta che io sono o Facebook o Apple o Google o quello che vuoi tu, è una rendita, no? Di tipo quasi parassitario. Per cui faccio soldi non attraverso una produzione, ma attraverso uno sfruttamento. Dico male? Sì, sì, esiste la rendita, cioè soprattutto quella immobiliare, cioè mi sembra quella più rilevante negli ultimi, come vediamo a Milano. Cioè. Milano è una bolla immobiliare unica, cioè che da qualche parte il denaro lo deve succhiare indubbiamente, no? Da dove? Dalla periferia, non so. Comunque voglio dire, l'epoca della globalizzazione cosiddetta è stata questa, cioè un trasferimento dell'attività produttiva di plusvalore in altre parti del mondo, periferie, semiperiferie, dove il gioco del plusvalore è continuato e dove, diciamo, classico che il fatto che il surplus commerciale cinese veniva reinvestito nella borsa di New York. C'era questo, diciamo, gioco favorevole a win-win, come si dice. Il trattato nero. Per cui si poteva dire che il debito statunitense era finanziato dal surplus cinese. Cioè c'era. Poi, l'ha fatto prima con i giapponesi negli anni '80. Quindi diciamo, non è che è scomparso, diciamo, quello che era l'accumulazione, il plusvalore, eccetera. Si è trasferito di geograficamente, però è rimasto, ed è rimasto comunque il fatto che il capitale, diciamo, investito nell'accumulazione si riduce progressivamente, perché va a finire tutto non tutto, ma una buona parte nella speculazione finanziaria. Quindi il fatto che il capitalismo è morto, o no, comunque in fase, diciamo, di terapia intensiva, è perché diciamo, l'accumulazione, insomma, stenta, finisce. Nelle mani di poche non viene reinvestita, quindi. E quindi, diciamo, c'è sempre questo gioco, non è che è scomparso. Comunque lui, Marco, aveva iniziato con una citazione di Guccini, concluderei con un'altra citazione di Guccini, che iniziava i suoi concerti dicendo: Georges Brassens è morto, Jacques Brel è morto, De André è morto e io non mi sento benissimo. Ecco, poi dopo è vivo e vegeto, eccetera, però il capitalismo potrebbe dire la stessa cosa: è morto questo, è morto quello, io non mi sento benissimo, però sono l'unico che ancora campa. Sì, solo una sollecitazione per il prosieguo, perché mi pare che in qualche modo con questa puntata, non dico che si sia esaurito il ciclo del discorso, ma si è andati a focalizzare l'attenzione su una domanda sostanzialmente. Che cosa permette a questa enorme macchineria di fascinazione di continuare a validarsi? Dopo l'analisi dei vari sistemi, le varie innovazioni per la produzione di capitale fittizio, eccetera, eccetera, potrebbe valere la pena di analizzare tutti quegli attori che sostanzialmente come mestiere, come professione, hanno quella di raccontartela. Secondo me questo può essere utile, perché una domanda si pone per prima: ma se è lo 0,1% e il 99,99%, perché non semplicemente senza neanche fargli del male, dicendo potete spostarvi un pochino che noi avremo da vivere. Quella parte che vari autori hanno definito come facilitatori o portatori d'acqua, oppure quegli stessi che sono al centro gli influencer che sono al centro del libro che hai citato di Marco D'Eramo, no? Quelli che una volta qualcuno ha chiamato gli apparati ideologici, ecco, tutto questo è secondo me fondamentale cercare di scrocchiarlo, perché in questi 40 anni la produzione di ricchezza è andata diminuendo, è nata una sempre maggiore importanza della dimensione fittizia, ma non solo sul piano dei conti, sul piano della consapevolezza, sostanzialmente, dell'immagine che gli uomini hanno della vita che conducono. E, ecco, potrebbe valere la pena di, sempre stando attaccati ai fatti dell'economia, però analizzare quelli che di mestiere non fanno appunto i conti, ma si incaricano di comunicare sostanzialmente. Ossia, sì. Si incaricano dell'involucro. Esatto. Allora, qualcuno c'era, qualcuno no. Quando Maurizio Novelli fece il suo primo intervento qua, io feci una premessa. Maurizio Novelli scrisse un libro sul debito, è un libro molto interessante, scritto molto bene, e quando ancora il libro non esisteva c'erano le bozze, mi telefonò, ci sentimmo e mi disse: ah, sai che ho chiesto a Giavazzi di fare la prefazione. A Giavazzi, ho detto io, ma lui, le bozze io le avevo lette, ho detto: ma sei sicuro? Sì, sì, perché sai, siamo in rapporti, perché lui mi chiede tutta una serie di informazioni, di dati, eccetera. Ho detto: Novelli, chi paga la pizza? Se te la fa, pago io. Se non te la fa, paghi tu. Il libro è uscito senza la prefazione di Giavazzi, il quale ovviamente non poteva fare la prefazione, che sarebbe stato in qualche modo un avallo a un libro che contestava con fatti, numeri e cifre il sistema sul quale, come diceva Michel Onfray, che diceva che i professori della rivoluzione sono i primi che sperano che la rivoluzione non arrivi mai, voglio dire, ma noi, Cottarelli, che doveva fare la spending review, che non ha fatto assolutamente nulla, scrive un libro sulla spending review, e però è uno di quelli che viene chiamato a non farla, perché sanno perfettamente bene che se chiamano Cottarelli non succede niente. Lui scrive un libro, gli danno i soldi, lui dice: ah, perché qui bisognerebbe fare questo, nessuno fa nulla. Questo tipo di persone, Alesina, Giavazzi, Cottarelli, ma ce n'è una pletora. Questi sono fondamentalmente come il famoso bacio della sorella, cioè dice: ma ti è piaciuto? Sì, è stato come baciare mia sorella, cioè non succede nulla. E sarei d'accordissimo di fare una lista di proscrizione su questi venditori di buon senso applicato, l'importante è che non cambi nulla, no? Ecco, potrebbe essere una... perché... oltre Visconti ha cercato di delineare le differenze tra la crisi degli anni 70 e... dimenticandosi il petrolio, però. Ecco, sì. però c'è un'altra differenza fondamentale, cioè il fatto che in quegli anni, negli anni immediatamente precedenti, e questo fu un fattore dell'esplodere della crisi stessa, una certa fetta della popolazione, anche nei paesi sovrasviluppati, non credeva più alle balle che venivano raccontate. Un tempo si diceva: se lo dicono in televisione, sta sicuro che è una balla, no? E questa questione è stata rilevata, tant'è che una grossa attenzione da parte dell'elite è stata posta nell'istituire dei gruppi, delle fondazioni, dei think tank, dei gruppi organizzati che raccontassero un'altra versione della cosa. E va riconosciuto che questo sforzo in buona parte è stato premiato da successo, anche se la questione non è chiusa neanche su questo piano, perché insomma, Marco ha citato il caso della guerra in Ucraina e delle vicende di Palestina. C'è un lato di questa attualità politica drammatica, che è quanto sta accadendo nelle università americane, un po' in giro per il mondo. Quindi sostanzialmente un accenno di risvegliarsi delle coscienze, una ripresa di sensibilità attiva da parte di certi strati della gioventù. Ma poi c'erano già una serie di dati interessanti sul fatto che nonostante tutto lo stamburamento ideologico dei 30-40 anni precedenti, attualmente una maggioranza della gioventù americana vede con favore una prospettiva in senso o in un altro di tipo socialista, no? Poi vai a vedere che cosa si intende, cosa no, però questo è importante perché dalle nostre parti uno degli errori fatti è stato quello di pensare che nonostante la scomparsa delle forme organizzate di lotta, l'impoverimento del tessuto anche connettivo delle popolazioni, però la forza delle condizioni materiali avrebbe prodotto di per sé una possibilità. Invece questo è forse quel pezzo del nostro approccio che fa più fatica a stare in piedi, perché la realtà nel frattempo è scomparsa sotto questa spessa coltre di narrazioni, di immagini. Ecco, e in questo approccio che propongo non si tratterebbe soltanto di appunto compilare una serie di liste di proscrizioni di mentitori professionisti, ma anche di cercare di centrare quali sono i motivi per cui si resta attaccati a questo modo di vita, cioè perché si fatica così tanto a riconoscere la realtà, non soltanto perché te la raccontano, non tutti stanno ad ascoltare, però moltissimi stanno comunque attaccati per una serie di va male, ma potrebbe andare anche molto peggio. Quindi, insomma, ecco, cercare di nell'insieme prendere in considerazione il lato soggettivo della faccenda. Cominceremo dal trattato sulla servitù volontaria di De La Boétie. Ecco, sì, è un buon sono queste due robe. E poi finiamo con la storiografia capitalistica della stanchezza. Sì, e poi con la Stefania Consigliere, che ha analizzato bene questi meccanismi, queste serie di snodi che fanno sgocciolare le idee della alla fine non va male fino molto vicino a noi, ecco. Bene, sappiamo di che cosa parleremo.